9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi vediamo quale sarà la coda sui mercati del maxi intervento di emergenza delle quattro banche centrali mondiali maggiori che hanno dato liquidità all'Europa. Oggi c'è un Ecofin straordinario, per la prima volta gli Stati Uniti intervengono all'Ecofin, questo dà l'idea di come l'America tremi di fronte all'idea di un salto dell'euro sul default programmato della Grecia, che molti temono per questo fine settimana addirittura, mentre a mercati chiusi oggi inizia il conto alla rovescia per vedere se Moody's declassa o meno il rating del debito sovrano italiano. Questo è il quadro nel quale la giornata di borsa però oggi dovrebbe essere, secondo le previsioni dei futures, orientata ancora a un segno positivo per ritirare il fiato dopo che le quattro banche centrali mondiali maggiori hanno ieri dato con il proprio liquido la sensazione concreta di solidarietà nei confronti dell'Europa. Il problema è che occorrerebbero misure concrete per vedere come far uscire da una Grecia il cui debito pubblico verso il 160% del PIL è oggi chiaramente non più solvibile, e quindi una procedura controllata di semi-default è comunque considerata da tutti la via più probabile. Vedremo con quali conseguenze anche per l'Italia, primo euro emittente dell'area, dell'area continentale europea. Inciso, perché su questo torneremo se ci fossero novità di borsa durante la puntata, come sempre facciamo qui a Radio 24, ma la puntata di oggi è dedicata alla Lega, ed in particolare non solo a chi da fuori osserva la Lega e ne ha un giudizio che sarà più o meno critico a seconda di cosa ne ha pensato negli anni, ma il mio appello è a voi che state in ascolto, in particolare a voi che avete sostenuto, incoraggiato, votato o ancora votate, siete militanti, quadri, amministratori della Lega, per farci capire meglio. Oggi è uno di quei giorni in cui ho faticato un pochino a trovare degli ospiti, ho faticato a trovare ospiti interni della Lega, parlamentari, amministratori della Lega, con i quali il mio primo istinto era di dialogare per offrirvi il loro punto di vista, perché oggi ci occupiamo dei malesseri della Lega, dei problemi che sono emersi oramai pubblicamente, quindi non si tratta di malevolenza nel volerli indicare al pubblico, si tratta di capirli meglio, e avevo chiesto a molti di loro di venire al microfono per farci comprendere meglio quali temi, quali linee, quali opinioni si confrontino all'interno del movimento. Siamo vicini, in questi giorni c'è, oggi inizia la cerimonia dell'acqua sul Po, che finirà poi domenica con il classico appuntamento di metà settembre di ogni anno con la cerimonia dell'acqua, e a Venezia con il comizio del leader Bossi, ma insomma in queste ultime settimane e mesi sono stati numerosi i punti in cui pubblicamente è emersa una divergenza di opinioni, di sensazioni, di linee strategiche nei confronti oramai di questo governo, come continuare, in vista di che cosa, se recedere, e poi dissensi concreti, dissensi sul capogruppo alla Camera, visto che i sostenitori più vicini a Maroni hanno cercato di sostituire il capogruppo con Giacomo Stucchi, sostituendo l'onorevole Reguzzoni, non ci sono riusciti. La stessa cosa è avvenuta per tentare di sostituire Giancarlo Giorgetti alla guida della Lega Lombarda, in questo caso invece erano, diciamo, quelli più vicini a Bossi a tentarci e non ci sono riusciti. Sul caso milanese, che il collaboratore, il parlamentare collaboratore, ex collaboratore dell'onorevole Tremonti, si era capito nell'autorizzazione all'arresto, alla custodia cautelare dell'onorevole Papa prima della pausa estiva, che la Lega era per l'arresto. Invece in questa settimana abbiamo appreso il contrario. Ci sono stati casi molto rilevanti come di amministratori, innanzitutto Flavio Tosi, l'apprezzato sindaco di Verona, e il sindaco di Varese Fontana, vicepresidente dell'ANCI, che si sono uniti alle critiche assolutamente trasversali dalla destra alla sinistra di tutti gli amministratori locali contro la manovra bis, e che all'inizio di questa settimana sono stati duramente ed energicamente allineati invece al fatto che non bisogna più protestare, tanto che Fontana, sindaco di Varese, ha dovuto rimettere l'incarico che aveva in ANCI per evitare l'espulsione addirittura. Ecco, sono solo alcuni casi, di cui tanti altri ce ne sono, ma ieri sera un caso ancora più eclatante, e finisco la mia introduzione per passare subito agli ospiti, ma chiedendo a voi di telefonare, facendoci capire meglio cosa pensate dall'interno della Lega, come elettori della Lega. Ieri un caso veramente che mi ha colpito, perché per un articolo di Panorama, il settimanale guidato da Giorgio Mulè, che spesso invitiamo ai nostri microfoni, che naturalmente fa parte del gruppo Mondadori, un articolo firmato da Cristina Giudici dedicato appunto ai problemi interni alla Lega e incentrato anche sul ruolo centrale perdonatemi questa reiterazione, incentrato sul ruolo centrale della moglie di Bossi, la signora Manuela, che è un pochino, per via dello stato di salute del marito, è diventata negli ultimi anni una specie di coordinatrice del gruppo più ristretto, il cosiddetto cerchio magico intorno al capo della Lega, per un articolo, ma di quelli, devo dire la verità, più e più volte usciti sulla stampa per tentare di descrivere ai lettori cosa avviene nella Lega. C'è stata una reazione da parte del vertice della Lega durissima, con Reguzzone, il capogruppo, che ha annunciato una querela, e i numerosissimi dirigenti del primo piano del partito, che hanno chiesto ragione direttamente a Berlusconi di questo vergognoso e calunnioso attacco. Questi erano gli aggettivi usati nei confronti di Bossi e della sua famiglia, tanto che 20 minuti dopo lo stesso Berlusconi ha emanato un comunicato in cui ha attestato di dissentire, leggo, da ciò che ha scritto Panorama: ho avuto la fortuna di conoscere la signora Manuela e la stimo, sono lontanissimo dal contenuto dall'articolo e dalla intenzionalità ostile che da esso emerge nei confronti di ciò che riguarda la famiglia di Bossi e la stessa Lega Nord. Poi il comunicato del Presidente del Consiglio aggiunge che è una cattiva azione, mentre è notorio che io non sono mai intervenuto sui giornali da cui direttamente o indirettamente influenzato sul piano proprietario, il che fa intendere quindi che non corre rischi. Ma insomma, la richiesta a Berlusconi, del tutto inusitata, era durissima, e la risposta è stata immediata di totale difesa di Bossi e la sua famiglia, il che fa capire che le tensioni politiche devono essere, evidentemente i giornali non sbagliano affatto a fare il loro mestiere, ben alte. Allora, su questo, voi ascoltatori, diteci come la pensate, e se siete nel movimento, che pensate di quello che sta facendo questa Lega che dice no alle pensioni, questa Lega che sul federalismo porta a casa cose che tutti gli amministratori di tutti i partiti dicono che non esistono più e che non esisteranno mai, eccetera eccetera. Intanto i nostri ospiti, per chiedere a loro come la pensano. Abbiamo con noi Roberto Papetti, il direttore del Gazzettino di Venezia. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Massimo Cacciari, che ringrazio molto perché da anni, da moltissimi anni, da quando si sperava nella Lega come agente che scuoteva la Prima Repubblica, a oggi ha sempre tenuto gli occhi e le orecchie accese su quel mondo. Grazie a Cacciari. Arrivederci, grazie, buongiorno. Buongiorno, arrivederci, buona giornata, sono finita. E poi Cristina Giudici, che è l'autrice del pezzo su Panorama che ha creato il casino che dicevo prima. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Allora Cacciari, se dovesse darci una fotografia di quello che a suo giudizio è diventata la Lega in questo governo Berlusconi oggi, per come conosce quel mondo, che cosa vi si agita dentro? Lei che impressione ha? Ma mi pare normale la situazione. Sarebbe stupefacente semmai che nella Lega non si fossero aperte anche nella Lega forti contraddizioni. Tutti i partiti della Seconda Repubblica, di cui la Lega è il più anziano, sono in evidente stato di crisi, non hanno strategia, non hanno idee di come uscire da questa situazione, che non è solo di crisi economico-finanziaria ma anche proprio politica. Per cui per forza anche nella Lega, anche se Bossi fosse in perfetta salute, si sarebbero aperte queste contraddizioni. Vi è l'evidente fallimento di ogni strategia federalista comunque perseguita in questo paese da diverse forze politiche in questi ultimi 15-20 anni. E questo minaccia di far venir meno la ragione d'essere della Lega, che sulla realizzazione comunque di un qualche federalismo aveva giocato le sue carte. L'autonomia è crollata, gli enti locali non sono mai stati in una situazione più disperata dell'attuale. Quindi che cosa ha da vendere la Lega se non appunto l'acqua del Po? Non ha da vendere proprio più nulla, quindi deve ripensarsi globalmente, e questo è lo sforzo che mi sembra cerchi di fare Maroni oggi, cioè di ripensarla come partito nazionale, di ripensarla come partito moderato, tendenzialmente di destra nazionale, con una sua vocazione federalista che maturerà quando maturerà. E dall'altra parte c'è lo zoccolo duro, che invece vorrebbe comunque, non si sa bene nemmeno che cosa, perché appunto senza Berlusconi al governo non ci stanno neanche 10 secondi. Maroni pensa invece a una Lega di governo per il post Berlusconi, per il post Bossi. Mi pare che l'unico che ha un po' di filo da filare nella Lega sia appunto Maroni, però per farlo bisogna superare Berlusconi, bisogna superare Bossi, e al momento né lui né altri dentro il PDL hanno la forza per pugnalare Cesare. Le posso fare una domanda esplicita, sapendo che appunto da lei non ci sono di solito compromissioni nei giudizi chiari e taglienti? Non dovrebbe essere anche interesse delle forze attuali dell'opposizione, visto che in questi ultimi anni e con la crisi finanziaria dell'euro si incoraggiano in tutta Europa, hanno successo in tutta Europa forze secessioniste, xenofobe, sciovinistiche, questo è quello che avviene in tutto il nord Europa. Interessi di che cosa? Interessi a incoraggiare esattamente quello che dice, cioè... Ma guardi, sa, io poverino, lo dicevo 15 anni fa che erano incoraggiate queste forze dentro la Lega, che nella Lega c'era un'anima di governo, diciamo così, e federalista seria, e non soltanto secessionista, e non soltanto... c'era questa, bisognava appunto promuoverla, bisognava sollecitarla a uscire. Oggi tutto ormai è variabile dipendente dell'uscita di scena di Berlusconi, insomma, fin tanto che sarà lì il PDL resterà bloccato dalle sue componenti, diciamo così, di pietriste e immobile come lo è attualmente, cioè. Dopodiché sotterraneamente si sa che stanno cercando di annusare qua e là, per esempio a Verona certamente è del tutto esplicito, visto l'annullaggine totale dell'opposizione che hanno fatto, che la centrosinistra ha fatto a Tosi in questi anni, è chiaro che si sta preparando il tentativo di un rapporto con Tosi per le elezioni che si svolgeranno in quella città nel prossimo anno, con quale esito non lo so, ma comunque non è che nel PD questo che lei dice non sia avvertito, è avvertito, ma al momento senza alcuna strategia, tutto sotterraneo, tutte manovre di palazzo che non possono scalfire minimamente neppure lo zoccolo duro dell'elettorato leghista. E infine un'altra questione, all'interno del centrosinistra così come lo conosce, non è che invece si brinda al fatto che, per quanto lunga e sofferta sia la transizione al post Berlusconi, alla fine si è fatto giustizia del federalismo, si torna tutti centralisti e via cantando? Sicuramente vi è una componente assolutamente centralista nel centro-sinistra, vi è sempre stata, per quanto meno forte certamente di 15-20 anni fa. Questa componente vive di riflesso, cioè nella misura in cui nel centrodestra e anche nella Lega sono andate avanti non strategie federaliste serie, diciamo alla miglio per usare il nome di un mio maestro, ma appunto secessioniste eccetera eccetera, è chiaro che di rimbalzo questo faceva sì che si rafforzassero le componenti centraliste anche nel Partito Democratico e non solo. Se nella Lega emergessero forze, come mi pare di capire si stanno organizzando intorno a Maroni, questo permetterebbe forse anche il rafforzamento di una strategia federalista seria nel Partito Democratico. Ma ripeto, oggi come oggi tutto è subcondizione, due mega condizioni. La prima, la crisi economica che blocca ogni tentativo di riforma strutturale di sistema politico, e la seconda, la presenza di Berlusconi. Fintanto che Berlusconi non toglie il disturbo, questo paese rimane bloccato. Mi pare che ormai ci siamo, ecco, e vedremo se qualcuno va un po' di filo da filare, un po' di idee in testa. Ecco, mi pare che questo esordio di realismo, un po' amaro, ma secondo me molto vicino alla realtà di Cacciari, sia il quadro migliore. Devo dire che i primi SMS che arrivano al nostro numero dagli ascoltatori e lettori leghisti sono i più improntati alla delusione. Io devo dire che poi ho alcuni esponenti leghisti con cui sono più amico, per esempio Matteo Salvini, che è spesso ai nostri microfoni, che è consigliere comunale a Milano e poi è europarlamentare. Se andate a vedere la pagina Facebook di Salvini, trovate, a differenza di altri siti della Lega che hanno un po' messo il silenziatore alle proteste al basso, trovate con grande sincerità elettori, quadri, leghisti che dicono dello stato di salute dell'alleanza col PDL con chiarezza, che non ne possono più, che è una cosa arrivata al capolinea, che la Lega stessa è in difficoltà crescente, terribile, palpabile con il proprio elettorato, e infatti moltissimi sono gli SMS che ci state mandando esattamente in quella direzione. Direttore Papetti, dal suo osservatorio, che cosa si vede? È vero che Tosi è insieme a Maroni una delle linee di sviluppo future più promettenti e contemporaneamente proprio per questo messo in un osservatorio un pochino ai ceppi dai suoi compagni leader di partito? Ma allora, io credo che da questo punto di vista vale quello che ha detto Massimo Cacciari prima. Certamente Maroni in questo momento sembra essere all'interno del gruppo dirigente nazionale della Lega l'esponente che ha maggior consapevolezza della crisi in cui versa il movimento e che si sta facendo carico di trovare delle soluzioni. Direi che sulla stessa linea vedo Tosi sicuramente, ma in una certa misura anche governatore del Veneto Zaia, che non è classificabile come maroniano, ma che certo in più di un'occasione secondo me ha dato la sensazione di percepire con tutta evidenza la crisi di questo movimento, che poi è una crisi che ha molti aspetti, che è una crisi precedente alle difficoltà economiche, alla manovra. Diciamo così che la manovra, le difficoltà di queste settimane, la confusa gestazione delle misure contro la crisi hanno fatto esplodere una situazione che però era già latente ed evidente da molti mesi, persino precedente alla tornata elettorale. E le ragioni di questa crisi credo che siano tre essenzialmente. La prima l'ha già indicata Massimo Cacciari: è venuta meno la ragione sociale della Lega, che era il federalismo. Il federalismo oggi è una moneta difficilmente spendibile sul mercato della politica italiana, per ragioni che sono del tutto evidenti, e la Lega non ha più obiettivo, non ha più una strategia. Il secondo aspetto, so che questa è una considerazione che irrita l'elettorato leghista, ma Bossi è stato sicuramente uno dei protagonisti della scena politica degli ultimi 20 anni e con lui il gruppo dirigente della Lega, ma in questa ultima fase si deve constatare un'incapacità di ridefinire la strategia politica della Lega. Oggi, lo dico in modo un po' brutale, un po' banale, non si sa che cosa vuole la Lega. Vengono meno le ragioni per cui si deve votare la Lega. La Lega conserva una rete di bravissimi amministratori a livello locale, ma un deficit di gruppo dirigente nazionale che è del tutto evidente. Per l'amor di Dio, l'ha già detto Cacciari, non è che gli altri partiti stiano meglio, anzi, tutti hanno problemi di definizione strategica, di capacità di definire una linea politica. La Lega però probabilmente più di altri ha questo problema. La terza cosa è che se c'è un elettorato che è istintivamente insofferente rispetto a quello che sta succedendo oggi intorno a Berlusconi, questo è l'elettorato della Lega, più di altri partiti. C'è un'insofferenza viscerale, immediata, umorale all'uscita di una serie di notizie, di informazioni che riguardano la vita privata e la condotta personale del premier. Con questo io non esprimo giudizi su questo, constato che però nel mondo leghista questo provoca delle reazioni molto, molto, molto forti, una disaffezione evidentissima. Certo, è un po' impressionante vedere un partito nato dal basso eccetera eccetera che mette la mordacchia, minaccia di espulsione amministratori eccetera, almeno a me fa molta impressione, perché quando un partito ricorre ai propri viri vuol dire di solito che c'è un contrasto politico molto forte, quasi identitario su dove bisogna andare. Una rapidissima telefonata iniziale, Costantino dalla provincia di Milano, prego Costantino. Pronto, ciao Costantino, Cassano Magnago Varese. Sì. Ciao, sono un elettore leghista e rimarrò sempre un elettore leghista, ma sono contrario a questa situazione, a questo appiattimento che ha avuto la Bossi e la dirigenza nei confronti di Berlusconi, proprio una cosa vergognosa. Io mi ricordo e amo il vecchio detto, ce l'abbiamo duro e dovevamo andare avanti per la nostra strada. Da quando abbiamo mandato i nostri capi a Roma è proprio vero il detto che chi va al mulino si infarina. Quando hanno visto i soldi non sono più stati la parte energica, la parte pura dell'idea leghista, proprio una cosa vergognosa. Allora a questo punto mettiamo da parte Bossi, teniamolo a fare la bella immagine e gente nuova, gente fresca, via lo stesso Maroni, cioè gente nuova, ci vuole uno Zaia, ci vuole un Fontana, che sono in disaccordo perché loro sono molto più vicini a, alla gente di tutti i giorni rispetto a chi è a Roma. Io ho una cosa che mi brucia: quando è stata fatta la Credi Euro Nord, tanti leghisti come me ci hanno creduto, e io sono uno di quelli che ha messo dei soldi, sì. E il risultato è stato poi sotto gli occhi di tutti. Se non ci fosse stata una determinata situazione politica, noi la nostra, i nostri soldi li abbiamo persi, ma credevamo un ideale, e questa è stata veramente una cosa vergognosa. I capi ci hanno tradito, gente nuova, e rimarrò leghista. Eccoci tornati in studio. Nel frattempo la conferma dopo i futures all'apertura, la borsa di Milano è aperto con segno positivo, più 0,8, più 0,9, Francoforte leader della crescita con 1,5%, anche Londra è quasi più 1%, Parigi oltre l'1%, 1,3%. Vediamo come evolverà la giornata, ma questo dovrebbe essere il segno, perché non ci dovrebbero essere, tranne sorprese a mercati aperti, se non il continuum del Brindisi, diciamo, per gli interventi delle quattro banche centrali iniziati ieri con liquidità straordinaria ai mercati. Oggi Ecofin, occhio e orecchio alla presenza di Gaetan. Per la prima volta l'America interviene a sostegno dell'Europa. Allora, Cristina Giudici è una giornalista del Foglio di Grazia, e ha scritto per questo articolo su Panorama, che è un bel casino, infatti, insomma, ti trovi con la testa del direttore Mulè richiesta da tutta la Lega, quasi tutta la Lega, a dire la verità, ma insomma, il vertice della Lega all'editore, che è pure il Presidente del Consiglio, che dice che tu sei una intimidatrice, un'intenzionalità ostile, ma insomma, che cavolo hai combinato? No, ma diciamo che praticamente questo articolo, vabbè, c'è il fatto che tutto quello che viene fatto su Panorama è ovviamente pensato come qualche attacco del cavaliere verso qualcuno, dove ovviamente in molti casi è e in molti altri non è. La genesi di questo articolo è semplice, che quando, anzi un po' sei anche partecipe tu, che quando mi ha invitato alla radio il direttore di Panorama ha letto l'articolo che avevo fatto sul Foglio, dove ho scritto esattamente le stesse cose con qualche notizia in meno, perché poi le cose sono ancora peggiorate e sono cambiate, e mi ha detto, molto intrigante questa Mulè, mi ha detto molto intrigante la questione della moglie, e raccontiamola, io l'ho raccontata, e nel frattempo però i cosiddetti maroniani, che sono sempre più ogni giorno più furiosi, anche con lo stesso Maroni, perché non capiscono, perché non si è più capace di muoversi, perché non capiscono bene probabilmente le logiche e le strategie di politiche, e hanno cominciato a alzare i toni e a usare dei termini offensivi nei confronti di quella che comunque, secondo loro, è comunque vero, sta buttando, come dire, a mare un movimento. Io non condivido tanto poi tu le analisi che ho sentito finora, neanche quella di Cacciari, cioè è giusto nella prima parte, ma la seconda parte è un'altra, è che questo è diventato, che c'è un gruppo ristretto, guarda, ieri c'erano... Cioè, aspetta, che non si è capito, è diventato... No, un piccolo gruppo ristretto di potere, sì, che semplicemente ha dimenticato, cioè non se ne frega in questo momento, sono esasperati, se ne fregano in questo momento di quello che possono perdere, perché pensano alla propria sopravvivenza. Se tu vedi le agenzie che ci sono uscite ieri, cioè ieri sono uscite su questo pezzo 17 agenzie, più sì, di quelle dedicate al caso milanese. Cioè no, devo dire che ieri sera io ero impressionato, cioè ero impressionato anche per la rapidità e la durezza della risposta di Berlusconi, cioè evidente, no, che c'è un problema politico. Ovviamente lì è, cosa succede a quel punto? Che tutti l'hanno usato, praticamente l'hanno usato contro, dicendo che era una roba decisa dal cavaliere, eccetera, per rompere le non mi risulta, poi non so, scrivo per il Foglio. E posso garantire, conoscendo da anni Cristina Giudici, che non prende ordini da Berlusconi. Sì. Berlusconi, e sono anche sicura che, cioè, so è la genesi, diciamo, di come mi è stato chiesto questo articolo, poi conosco anche bene Giorgio Mulè, quindi posso garantire anche per lui. Allora, in questo caso, dopodiché la cosa è che tutti l'hanno usata contro tutti, nel senso che se vedi il primo comunicato è il comunicato di Calderoli contro Maroni, di fatto, e contro tutti i reghisti dissidenti, perché è come dire che Maroni avrebbe ispirato questo articolo. E infatti, e diciamoci la verità, ciò che ha fatto saltare sulla sedia un po' di capi leghisti sono i giudizi virgolettati che tu citi, evidentemente, di amministratori, parlamentari, leader della Lega. Li ho citati anche nel foglio, esatto, tre giorni prima. Lo so, però su Panorama loro l'hanno utilizzata per farsi la guerra tra di loro, perché è chiaro che il virgolettato matrona, patrona è un po' terrona, la definisce un sindaco verde finito in disgrazia, lei considera traditore chiunque si opponga alla famiglia, sul Panorama è diventato un motivo di scontro. Ma io ci tenevo a che dicessi che l'articolo come nasce, perché poi alla fine noi facciamo i giornalisti, non è che facciamo i poi sicari, e che fosse chiaro agli ascoltatori che dietro non c'è né Berlusconi. Moulet è uno che fa il suo mestiere ogni giorno e rischia la testa con quell'editore e con chi legge il giornale che lo strumentalizza, ma quello che conta è che Cristina Giudice aggiunge questo aspetto su personale di potere abbarbicato alla sedia, che non mi sembra secondario, a dire la verità, nel descrivere i problemi. In quell'articolo c'era una notizia che poi io ho riportato anche il giorno dopo sul foglio, e ancora lì io non capisco perché lì, forse di chi si non leggono il foglio, non so se è spiegata a questo punto questa spiegazione, che comunque tutti stanno rientrando nei ranghi, evidentemente, e se anche la notizia che circola che Giorgetti è stato cercato un confronto con la moglie di Bossi, vuol dire che, come ha detto un altro amministratore, ma non militanti come quello che ha chiamato adesso, per quadri di partito, evidentemente che Bossi probabilmente non ha più la capacità di decidere, e non è la questione proprio secondaria. Va bene, io so che non è proprio secondaria. Non è proprio secondaria. L'ultima cosa che volevo dirti è che ieri io ho ricevuto tante di quelle telefonate da leghisti che dicevano: ma questo articolo è straordinario, ma questi qui sono tutti amici del ministro Maroni, e lui ovviamente non è colpevole, perché il problema è che loro hanno detto: ah, ma è Maroni che ha ispirato questo, quegli altri hanno detto: ah, quello che ha ispirato. Io non sapevo se essere più irritata o più divertita. Comunque grazie, perché qui non esistono pennivendoli di regina. Io difenderò sempre chi come Cristina, chi come Moulet, perché anche il direttore Moulet, che si trova con la Lega che chiede la sua testa a Berlusconi che praticamente in 20 minuti dice: atto ostile, quindi è come dire dimettiti, poi alla fine all'ultima riga dice: sì, ma io non intervengo. Certo, se prendi a ceffoni così i tuoi direttori. Va bene, grazie Cristina, sentiamo un po' di ascoltatori. Andrea da Reggio Emilia, rapido. Andrea, come la pensi? Andrea? Ci sente Andrea? Non ci sente Andrea? Allora cominciamo da Sergio dalla provincia di Bergamo. Sergio, ci sente? Sì, buongiorno Giannino e buongiorno a tutti i suoi ospiti. Io ero un leghista fin dalla nascita della Lega. La Lega adesso mi ha letteralmente deluso, e specialmente Bossi, e ho visto in Pontida a luglio di quest'anno una freddezza del popolo vero leghista e non degli esaltati giovani leghisti, soprattutto rivolta anche verso il figlio di Bossi, verso il Renzo Bossi, che qui tanto diciamo Luciani prende in giro alla Zanzara. Sì. Questo a me fa da capire una cosa, che Bossi ha finito un ciclo, deve cambiare musica, non deve più dire Padania, perché loro non sanno neanche che cos'è la Padania, perché la Padania è da dove nasce il Po a dove muore il Po, perciò è tutto il nord che va dal Piemonte fino al Veneto. Quindi lei dice che è finito un ciclo. La Padania è quella, e sa benissimo Bossi che la Padania non verrà mai, perché lui quando è a Roma mangia, quando è qua deve tenere buoni suoi, ma è arrivata la resa dei conti. Grazie Sergio, andiamo a Cristian che ci chiama da Brescia, prego Cristian. Sì, buongiorno a tutti. Allora, premesso che Pontida è stato il funerale di Bossi e di suo figlio, io sono sempre stato un elettore leghista e sono alla finestra. Sto aspettando di vedere cosa farà Maroni insieme ai maroniani, sono sempre stato moderato come leghista. Allora, la cosa importante, un appello a Maroni, a Zaia e a tutti gli altri: non rientrate nei ranghi, date battaglia. Dobbiamo liberarci da Berlusconi, e Bossi, purtroppo, mi dispiace dirlo perché è stato un grande, deve andare in pensione. Grazie a tutti. Grazie Cristian. Il problema è come uscire da Berlusconi, se la Lega può essere il motore per l'uscita da Berlusconi, che io molte volte l'ho pensato, a dirvi la verità, e adesso mi pare il contrario, però per ragioni che non mi sono chiare. Il caso milanese è un caso, insomma, che fa pensare, dopo il voto su Papa, che faceva intendere, visto che la gravità dei reati per cui Milanese è attualmente indagato, io sono un garantista per tutti, però in realtà è maggiore di quelle da P3 e P4 eccetera, leggendo le carte, e il voto su Papa faceva intendere che fosse una prova su Milanese. Poi drasticamente cambiata la musica questa settimana. Danilo dalla provincia di Vicenza, rapido anche a lei chiedo. Danilo, prego. Sì, buongiorno. No, volevo solo dire molto velocemente che la crisi della Lega è molto semplice da spiegare, cioè era un movimento rivoluzionario in senso pacifico che ha fallito tutti i suoi obiettivi e che sta facendo e ha fatto esattamente il contrario di quello che diceva. Era nata contro la burocrazia statale, era nata per il federalismo, adesso ci ritroviamo che alle tasse nazionali verranno aggiunte altre tasse locali, ci ritroviamo che la Lega fa parte a pieno titolo della casta romana. Eravamo contro le province, eravamo contro le baby pensioni, e adesso veniamo a sapere che la moglie di Bossi è in pensione dall'età di 39 anni. Veniamo a sapere che quell'intelligentone di Renzo Bossi è eletto in consiglio regionale a 15.000 euro al mese. Tutto questo non è assolutamente accettabile. Come diceva l'ascoltatore precedente, Bossi è stato un grande, adesso deve mettersi da parte, bisogna fare i seri. Basta buffonate, padania e cose strane, adesso bisogna far governare l'Italia da gente che abbia un minimo di conoscenza delle cose, un minimo di capacità e un minimo di onestà. Eccoci tornati in studio, ancora due ascoltatori e poi andiamo alle conclusioni ancora con Papetti, direttore del Gazzettino, e con Massimo Cacciari in conclusione della trasmissione. Enzo da Pesaro innanzitutto, prego Enzo. Buongiorno, io sono un ex elettore di sinistra che negli ultimi anni ha votato Lega. Non lo farò più perché la Lega è stata, ahimè, una delusione forte. Io mi sono avvicinato all'idea federalista proprio convinto che gli enti locali, la classe politica locale dovesse essere responsabile non solo della spesa ma anche delle entrate. Ahimè, la politica che ha fatto la Lega, che ha fatto questo governo in questi anni è stata esattamente l'opposto. Non ha dato le entrate, ha tolto entrate agli enti locali e gli ha lasciato esclusivamente le spese. Quindi a questo punto il sistema non funziona e la Lega da questo punto di vista è rimasto ben poco, insomma, di quell'idea federalista. Concordo con la giornalista che diceva è solo un gruppo di potere ormai arroccato e terrorizzato dall'idea di perdere il governo. Andrea da Reggio Emilia, grazie Enzo da Pesaro. Andrea da Reggio Emilia, vediamo se ci riusciamo prima della caduta la linea. Andrea, sì, ci sente? Sì, ho sentito bene, buongiorno. Anch'io sono un elettore della Lega che sta alla finestra come l'ascoltatore che ha chiamato prima. Quello che rimprovera in questo momento la Lega è questo, cioè la Lega si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania e in questo nome si può dire che ci sia tutto il programma. Ora, in questo momento storico, dove si fanno finanziare dai 40, ai 50, ai 100 miliardi complessivi, se è vero che il federalismo da solo vale tra i 50 e gli 80 miliardi, secondo me era un'occasione irripetibile per battersi fortemente per far passare un federalismo più spinto, più vicino a quello di Luca Ricolfi. Invece vedo che fanno i ministeri al nord, fanno la difesa delle vecchiette con la pensione, eccetera, eccetera, e quindi sono molto deluso, insomma. Grazie anche ad Andrea. Tante volte con Luca Ricolfi da questi microfoni e col professor Antonini abbiamo spiegato come i decreti attuativi del federalismo, dal nostro minoritario punto di vista, siano stati una fortissima delusione. Il costo standard non è altro che il costo storico un pochino imbellito, con un po' di fard. Non è il meccanismo che per anni, di cui avevamo per anno elaborato gli indici per premiare davvero chi è stato virtuoso, chi ha speso meglio e meno, ma soprattutto meglio, e per indirizzare e convergere tutto il resto su quei criteri e quei parametri. Per avere l'accordo di tutti in sede di regioni, comprese quelle che hanno più sfondato, e tutti in sede di autonomie e anche di opposizione, il meccanismo dei decreti attuativi, mi dispiace, quello a cui ha presieduto il ministro Calderoli, è stato spalmato in una maniera tale cui effetti non saranno quelli, secondo me, che avrebbero potuto essere. La domanda conclusiva, abbiamo sei minuti, quindi 2 o 3 minuti per Papetti, 2 o 3 minuti per Cacciari. Papetti, dal suo punto di vista, è possibile che sia la spinta dei mercati quello che fa esplodere la cosa all'interno della Lega, oppure l'allineamento così brutale degli amministratori locali questa settimana fa intendere che comunque il pugno di ferro di Bossi dal suo punto di vista prevale anche sempre e comunque? Ma è possibile che i mercati, che la reazione dei mercati sia un elemento deflagrante che convinca i settori, alcuni settori leghisti, insomma Maroni e gli altri, a porre con maggiore forza rispetto a quanto è stato fatto fino adesso il problema del rapporto viscerale con tra Bossi e Berlusconi. Quello che sta succedendo, prima Cristina Giudici parlava di un gruppo di potere, forse per alcuni elettori leghisti è una militanti leghisti è una definizione un po' brutale, però è assai vicino alla realtà. Bossi e Berlusconi sono due debolezze che in questo momento cercano di sostenersi a vicenda. Mi sembra che la loro posizione sia sempre più debole. D'altro canto, la Lega è un partito un po' come il PDL, con un forte connotato leaderistico, e in cui in questo momento ci sono dei sommovimenti, ci sono delle tensioni, ma non c'è da parte dei dissidenti la capacità politica di tradurle in atti concreti, e quindi anche i diktat come quello non partecipate alla protesta dei sindaci determina un serrate le fila come quello che abbiamo visto, però sono, per così dire, delle reazioni momentanee. La realtà è che la Lega in questo momento è probabilmente il partito più in crisi, comunque dove ci sono maggiori fibrillazioni del quadro politico nazionale. Peraltro ritengo che sia quello che al proprio interno ha le maggiori, non dico migliori, le maggiori risorse per trovare una via d'uscita. Cacciari, se uno dovesse avere in mente, conoscere un po' la specificità di Verona, del suo sindaco, Tosi, eccetera, immaginerebbe uno sviluppo, se quelle fossero le direttrici del futuro, del dopo Berlusconi, della Lega, una CSU, insomma, moderata, un pezzo di eredità cattolica moderata conservatrice della ex DC, per intenderci. Qualcosa di molto lontano. Ma lei crede che questo possa essere un futuro sviluppo della Lega? Ma la Lega non potrà mai diventare una CSU, per ragioni proprio di radicamento, per ragioni sociali e culturali, di tradizione. Può nascere una CSU nel nord soltanto se si pensa ad un riequilibrio complessivo in cui la Lega si ritrovi in un partito con larga parte dei settori attualmente del PDL, dei settori liberali del PDL. Occorre pensare ad una rifondazione complessiva e del PDL e della Lega al nord per pensare a una CSU del nord. La Lega di per sé non potrà mai, neanche al nord, superare complessivamente un tetto del 15-16%, quindi non potrà mai essere una CSU. Questa è la ragione per cui, al di là delle questioni appunto di palazzo, di potere e tutte queste, e tutta questa politologia d'accatto che dilaga nel paese, questa è la ragione vera per cui sono bloccati, perché sanno benissimo che senza oggi il rapporto con il PDL, e cioè ancora con Berlusconi, non vanno da nessuna parte, collassano e basta. E quindi ci saranno tutte le ragioni di potere che prima si raccontavano. Ma però paradossalmente c'è anche una ragione politica. Ma anche una questione politica, ma certo, la Lega sa perfettamente di non poter diventare da sola nel CSU, né niente di tutto ciò. E quindi quindi ancora un bisogno vitale del rapporto con il PDL, che ancora è Berlusconi. La volta che Berlusconi si togliesse di mezzo finalmente, allora nel PDL si potrebbero aprire dei meccanismi che permetterebbero anche la formazione, magari non di un partito unico, ma certo in un rapporto diverso e nel senso della CSU e nel senso di un partito di forte radicamento regionale, ma di dimensione nazionale, con una visione davvero di governo nazionale anche nel nord del paese, e questo potrebbe riaprire i giochi. Ripeto, al momento Bossi può anche essere bollito, può essere quello che volete, ma sa perfettamente, da quell'animale politico che è, che al momento per restare al governo, per restare al potere, i partiti sono fatti per gestire il potere, con pace, con buona pace delle anime belle, o sta con Berlusconi e PDL o non sta da nessuna parte. E mi pare... anche perché dall'altra parte il Partito Democratico non ha fatto un gesto da vent'anni a questa parte per spiegarsi. con la Lega e gruppi dirigenti, ma con l'elettorato. Con l'elettorato. Io... di cui tra l'altro indicative certe telefonate, no? Perché certo, chi viveva nei territori come il sottoscritto, chi la politica l'ha fatta e non parlata, sa perfettamente che per esempio in territori come Vicenza, di forte base industriale, metà dell'elettorato leghista ha una provenienza di sinistra. Era di sinistra, ma infatti. Ecco, hai capito? Tu non hai capito nulla di queste trasformazioni sociali, culturali, eccetera. Io ringrazio. La Lega è andata per conto suo e alla fine. Ma nel 94, nel 1994, quando Bossi dà del mafioso a Berlusconi, bisognava saltargli in groppa, questa è la verità, bisognava prendere alla lettera quelle parole. Io questa conclusione di Massimo Cacciari sulla sinistra che non ha capito, e sulla ragione politica per cui Bossi, con tutta la sua cosa, resta appiccicato a Berlusconi, mi sembra la chiave che noi possiamo dare ai nostri ascoltatori. Mi dispiace che avrei voluto dare ancora più voce ai leghisti e soprattutto avrei voluto amministratori, dirigenti e quadri, perché oggi non siamo riusciti a ottenere nessuno di loro che venisse al microfono. Non è una bella cosa quando ci si chiude nel silenzio e si reagisce con le querele. Comunque, ora linea al giornale radio e appuntamento a lunedì. 9 in punto.